is a color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair, and the purest eyes and the strongest hands. I love the ground on where he stands. I love the ground on where he stands. Quaranta delle più grandi e forti donne che avessi mai visto assieme. Indossavano tutte una semplice uniforme di un tessuto bluastro a quadri. Le gambe e i piedi erano nudi. Si spostavano con un aspetto superbo, ognuna con una zappa sulla spalla, e camminavano con un passo ondeggiante, libero e potente, come cacciatori in marcia. E questo è l'incipit che mi piace utilizzare per parlare di un articolo scritto da Angela Davis. Il titolo è L'eredità della schiavitù, principi per una nuova condizione delle donne, e si trova in un libro che si intitola Donne, razza e classe. È un libro del 1981 che è stato ristampato dalle edizioni Allegre nel 2018. Ci dice Angela Davis, a proposito di questa descrizione che vi ho letto, che è la descrizione di un viaggiatore del 1860: è poco probabile che queste donne provassero orgoglio per il lavoro eseguito sotto la costante minaccia della frusta. Tuttavia, dovevano essere non di meno consapevoli del loro enorme potere, la capacità di produrre e creare. Forse quelle donne avevano imparato a tirar fuori dalle circostanze oppressive delle proprie esistenze la forza necessaria a resistere alla quotidiana disumanizzazione della schiavitù. La consapevolezza di un'infinita capacità di duro lavoro può aver rinsaldato la fiducia nella capacità di lottare per se stesse, la loro famiglia e la propria gente. E in questo articolo, appunto, che citavo, L'eredità della schiavitù, principi per una nuova condizione delle donne, Angela Davis cerca proprio di valorizzare questo aspetto, quindi di individuare i punti di forza che, nonostante la terrificante istituzione della schiavitù, hanno caratterizzato l'agire e anche lo strutturarsi del pensiero delle donne nere, appunto sottoposte a schiavitù. In questo articolo la Davis, non solo in questo articolo, in verità in tutto il libro, analizza un po' tutto il dibattito sulla schiavitù che a partire dagli anni 70 è emerso con vigore. La Davis cita una folta schiera di studiosi e di studiose che si sono occupate di questa istituzione. In questa marea di pubblicazioni, la Davis nota l'assenza di un libro, anche di un solo libro, che affronti in maniera esplicita il tema delle schiave. Scopre poi con delusione che, con l'eccezione delle questioni che riguardano la promiscuità versus il matrimonio, oppure il sesso coatto con gli uomini bianchi versus il sesso volontario, c'è una scarsa attenzione che viene rivolta dalle e dagli studiosi alle donne. Tra gli studi degli anni 70, Davis apprezza una ricerca sulla famiglia nera. L'autore è Herbert Gutmann. Comunque, qui non stiamo a fare poi questioni così specifiche. Chi vuole poi può leggersi nel libro, che è molto ricco, insomma, tutte queste citazioni. In tutti i casi, questo Herbert Gutmann, nel suo Famiglia Nera, fornisce prove documentarie che la vitalità della famiglia si dimostrò, della famiglia, parliamo degli schiavizzati, si dimostrò più forte dei rigori disumanizzanti dello schiavismo. Tuttavia, la Davis individua anche in questo ricercatore storico la tendenza a riconfermare le propensioni matrimoniali delle donne. Cioè, anche questo storico suppone che ci sia una propensione matrimoniale delle donne attraverso le osservazioni sulle schiave. Questa tendenza non gli permette di esplorare il ruolo multidimensionale delle donne nere nella famiglia e nella comunità di schiavi. Allora, con questo libro, Donne, razza e classe, la profana, così lei si definisce, Angela Davis, decide di affrontare le esperienze delle donne nere schiavizzate, non solo con l'intento della correttezza e precisione storiografica, ma anche perché le lezioni apprese durante gli anni della schiavitù possono illuminare le battaglie dei nostri giorni per l'emancipazione sia delle donne nere che delle donne in generale. Ecco, quindi diciamo che Angela Davis assume una prospettiva non vittimista, ma rivoluzionaria rispetto alla schiavitù. Black is the color of my true love's E andiamo a leggere alcuni passi da questo articolo di Angela Davis, L'eredità della schiavitù, principi per una nuova condizione delle donne. In proporzione rispetto alle loro sorelle bianche, le donne nere hanno sempre lavorato al di fuori delle proprie abitazioni domestiche. Da schiave il lavoro coatto sovrastava ogni altro aspetto della loro esistenza, pertanto il punto di partenza per ogni ricerca sulle vite delle donne nere durante la schiavitù dovrebbe essere l'analisi del loro ruolo in quanto lavoratrici. Il sistema schiavistico classificava i neri come beni mobili. Dal momento in cui le donne erano considerate entità lavorative redditizie al pari degli uomini, dal punto di vista dello schiavista, potevano anche essere prive di genere. Le donne nere erano di fatto delle anomalie. Dal punto di vista dell'ideologia della femminilità, sviluppatasi nel XIX secolo, che evidenziava i ruoli della donna come madre, che alleva i figli, gentile compagna o donna di casa a tutto vantaggio del marito. Si dà talvolta per scontato che la tipica donna schiava fosse una domestica, ossia una cuoca, una cameriera o una mammy, la bambinaia dei fanciulli del grande focolare. Stereotipi che si presumeva catturassero l'essenza del ruolo della donna nera durante la schiavitù. Come spesso accade, la realtà sta agli antipodi del mito. Le donne schiave, come la maggioranza degli uomini schiavi, lavoravano nei campi, mentre una proporzione significativa di schiave, negli stati che furono quelli della fascia di confine tra unionisti e confederati, potrebbero essere state impiegate come domestiche, quelle del profondo sud, il vero cuore della schiavocrazia, erano principalmente lavoratrici agricole. Attorno alla metà del XIX secolo, 7 schiavi su 8, maschi o femmine, erano braccianti. Un'anziana intervistata negli anni 30 ha descritto così la propria iniziazione infantile al lavoro nei campi in una piantagione di cotone dell'Alabama. Avevamo delle vecchie capanne sgangherate, fatte di pali, le crepe erano riempite di fango e muschio, a volte rimanevano aperte. Mica avevamo letti buoni, solo un'impalcatura inchiodata al muro, fatta di pali di legno, con qualche copertaccia messa sopra. Di sicuro non era facile dormirci, ma le nostre stanche ossa, dopo quelle lunghe e dure giornate di lavoro nei campi, sembrava andar bene. Quando ero piccola mi occupavo dei bambini, pulivo la casa, come la padrona mi diceva di fare, ma appena feci 10 anni, il padrone disse: «Avanti, portate questa negra nel campo di cotone». Ma le donne soffrivano anche in altre maniere, perché erano vittime di abusi sessuali e di altri barbari maltrattamenti che potevano essere inflitti solo alle donne. Era il profitto a determinare i comportamenti del proprietario schiavista verso le schiave. Quando era redditizio sfruttarle, come se fossero dei maschi, erano di fatto considerate asessuate. Ma quando le si poteva sfruttare, reprimere e punire in forme adatte solo alle donne, allora venivano rinchiuse dentro ruoli esclusivamente femminili. Con l'abolizione della tratta internazionale degli schiavi, parliamo dell'inizio del 1800, fu minacciata l'espansione della giovane industria del cotone. Pertanto la classe degli schiavisti fu costretta ad affidarsi alla riproduzione naturale come metodo più sicuro per il rifornimento e l'incremento della popolazione nazionale di schiavi. Si fissò allora un premio per la capacità riproduttiva della schiava. Una donna che aveva la potenzialità per diventare madre di 10 bambini, o 12, o 14, o anche più, valeva un tesoro. Questo non significa però che in quanto madri le donne nere godessero di uno status migliore di quello che godevano, di quello che avevano in quanto lavoratrici. Agli occhi dei padroni le donne non erano affatto madri, erano semplicemente degli strumenti che garantivano la crescita della forza lavoro schiavizzata. Erano riproduttrici animali, il cui valore monetario poteva essere precisamente calcolato nei termini della loro capacità di moltiplicazione numerica. Siccome le donne schiave erano considerate come animali da riproduzione e non come madri, i loro bambini potevano essere venduti e allontanati da loro, come si fa coi vitelli dalla vacca. Un anno dopo il blocco dell'importazione di schiavi dall'Africa, un tribunale della South Carolina dichiarò che le schiave non avevano alcun titolo legale sui propri bambini. Di conseguenza, secondo questa legge, i bambini potevano in qualsiasi momento essere venduti e allontanati dalle madri, perché un giovane schiavo sta sullo stesso piano degli altri animali. In quanto donne, le schiave erano vulnerabili a ogni forma di coercizione sessuale. La punizione più violenta per gli uomini consisteva in mutilazioni e fustigazioni, ma le donne venivano frustate, mutilate e stuprate. Di fatto lo stupro era un'espressione esplicita della supremazia economica del proprietario e del controllo del sorvegliante sulle donne nere in quanto lavoratrici. Dato che mariti e mogli, padri e figlie, erano ugualmente soggetti all'autorità assoluta del padrone, la promozione di una supremazia maschile tra gli schiavi avrebbe potuto provocare una pericolosa rottura nella catena di comando. Inoltre, dato che le donne nere, come lavoratrici, non potevano essere definite sesso debole o casalinghe, gli uomini neri non potevano candidarsi alla figura di capofamiglia o di colui che provvede al nucleo familiare. E in fondo, tutti assieme, uomini, donne e bambini neri, provvedevano tutti alla classe proprietaria degli schiavi. He knew I love my lover and well he knows. Oh, I love the ground on where he goes. That the time will come. Still I pray that the time will come when he and I will be as one. Lord, when he of true. Ci dice ancora Angela Davis nel suo scritto. Le donne schiave e i bambini costituivano una vasta porzione di forza lavoro in molte industrie tessili, della canapa e del tabacco, che utilizzavano operai schiavi. Le donne schiave e i bambini a volte lavoravano in industrie pesanti, come le raffinerie di zucchero o i mulini di riso. Altre industrie pesanti dei trasporti o del legname usavano in maniera considerevole donne e bambini schiavi. Le donne non erano troppo femminili da non poter lavorare nelle miniere di carbone, nelle fonderie di ferro o come taglialegna o scavatrici di fossi. Quando in North Carolina fu scavato il Santee Canal, le donne schiave rappresentavano un abbondante 50% della forza lavoro. Le donne lavoravano anche sugli argini della Louisiana, e molte ferrovie del sud, ancora oggi in uso, sono state costruite, almeno in parte, dal lavoro schiavistico delle donne. Le donne schiave erano di gran lunga più redditizie degli operai liberi o degli schiavi maschi, costavano meno dei maschi di prima categoria in termini di costo iniziale e mantenimento. Senza dubbio, molte furono spezzate e distrutte da quelle vicende, ma la maggioranza sopravvisse e nel corso di quegli eventi acquistò qualità considerate dei tabù dall'ideologia della femminilità del XIX secolo. Mentre l'ideologia della femminilità, un sottoprodotto dell'industrializzazione, diventava popolare e si diffondeva grazie alle nuove riviste per signore e ai romanzi sentimentali, le donne bianche cominciarono a essere percepite come abitanti di una sfera completamente separata dal regime del lavoro produttivo. La spaccatura tra la casa e l'economia pubblica, introdotta dal capitalismo industriale, confermò l'inferiorità della donna in maniera anche più drastica che in passato. Nel discorso pubblico, donna divenne sinonimo di madre e casalinga, ed entrambe queste etichette portavano con sé uno stigma di fatale inferiorità. Ma tra le donne schiave nere questo lessico non trovava posto. Le forme economiche della schiavitù contraddicevano i ruoli sessuali gerarchici incorporati nella nuova ideologia. La definizione della famiglia nera come una struttura biologica matrilocale ha molto a che fare con gli schiavisti. Gli atti di nascita di molte piantagioni omettevano i nomi dei padri, elencando solo le madri. E in tutto il sud le legislazioni statali adottarono il principio del partus sequitur ventrem, il bambino segue la condizione della madre. Queste norme furono imposte dai proprietari, che erano loro stessi padri di non pochi bambini schiavi. Ma queste categorie, queste norme, erano davvero usate dai neri per regolare le proprie relazioni domestiche? Molte analisi storiche e sociologiche della famiglia nera durante la schiavitù hanno semplicemente dato per scontato che il rifiuto del padrone di riconoscere la paternità tra i propri schiavi conducesse direttamente a una forma di famiglia matriarcale. In uno studio governativo che si intitola Negro Family si dice: alla comunità negra è stata imposta una struttura matriarcale che, essendo non allineata con il resto della società statunitense, ritarda gravemente il progresso di questo gruppo sociale nel suo insieme, proietta sul maschio negro un peso schiacciante e conseguentemente lo fa anche sulla maggioranza delle donne negre. Secondo questa tesi, l'origine dell'oppressione sarebbe più profonda della discriminazione razziale che produceva disoccupazione, edilizia scadente, educazione inadeguata e insufficiente assistenza sanitaria. L'origine dell'oppressione è descritta come un groviglio patologico creato dall'assenza di un'autorità maschile fra i neri. Molti sociologi bianchi, come anche molti neri, hanno continuato a ripetere la tesi secondo cui la schiavitù avrebbe in realtà distrutto la famiglia nera. Gli uomini di colore non hanno vere e proprie case, si muovono da una residenza dove hanno legami sessuali o di parentela a un'altra. Vivono dividendo una camera in un appartamento e in un'affittacamere. Passano il loro tempo negli istituti assistenziali. Non sono membri familiari delle case in cui vivono, le case delle loro mogli o delle loro fidanzate. Poi Angela Davis nomina diversi studiosi, insomma, che non so a dirvi. Veramente vale la pena di leggere il libro per approfondire in maniera anche più filologica. Porta avanti però la critica di questa, la Davis, di questa teoria del deterioramento intrinseco della famiglia nera sotto la schiavitù. Cioè lei dice che anche gli storici e i ricercatori più, diciamo, sensibili ad affrontare, ad analizzare l'esecuzione dello schiavismo e a decostruirlo, hanno avuto la tendenza a travisare lo spirito di indipendenza e di fiducia in se stesse che le donne nere avevano sviluppato. In quanto questi pensatori, questi storici, questi ricercatori tendono a deplorare il fatto che né la necessità economica né la tradizione avessero instillato nella donna nera lo spirito di subordinazione all'autorità maschile. No matter where I go. Black is the color of my true love's hair. E prosegue Angela Davis in questo suo saggio. In un saggio che ho scritto nel 1971, usando le poche risorse disponibili in carcere, ho così definito la portata delle funzioni domestiche della donna schiava. Nell'infinito tormento di provvedere ai bisogni degli uomini e dei figli che la circondavano, realizzava l'unico lavoro della comunità di schiavi che non poteva essere direttamente e immediatamente richiesto dall'oppressore. Non c'era alcuna paga per il lavoro nei campi e non era in alcun modo utile agli schiavi. Il lavoro domestico era l'unico lavoro sensato per la comunità di schiavi nel suo complesso. Proprio eseguendo quel lavoro faticoso, che a lungo è stato un'espressione centrale dell'inferiorità socialmente determinata delle donne, la nera in catene poteva contribuire a mettere le basi di una qualche autonomia, sia per sé che per gli uomini. Anche se soffriva in quanto donna per quell'oppressione, era comunque al centro della comunità di schiavi, era pertanto essenziale alla sopravvivenza della comunità. Da allora ho realizzato che il carattere peculiare del lavoro domestico durante la schiavitù, la sua centralità per gli uomini e le donne costretti in catene, implicava un lavoro che non era esclusivamente femminile. Gli uomini schiavi svolgevano importanti mansioni domestiche e non erano pertanto dei semplici partner delle mogli. Perché mentre la donna cucinava e cuciva, ad esempio, l'uomo si occupava dell'orto e cacciava patate, grano e altre verdure, così come animali selvatici, costituivano un delizioso supplemento alla monotona dieta quotidiana. Questa divisione di genere del lavoro domestico non sembra essere di tipo gerarchico. I compiti degli uomini non erano certamente superiori né inferiori al lavoro realizzato dalle donne. Erano entrambi egualmente necessari. Inoltre, ogni indicazione sembra suggerire che la divisione del lavoro tra i sessi non fosse sempre così rigorosa, perché gli uomini potevano a volte lavorare nella capanna e le donne curare l'orto e forse anche partecipare alla caccia. L'aspetto rilevante che emerge dal lavoro domestico negli alloggi degli schiavi è quello dell'uguaglianza di genere. Il lavoro realizzato dagli schiavi per se stessi e non per arricchire il proprio padrone era messo in atto in forme egualitarie. I neri hanno trasformato un'uguaglianza negativa, che promanava da un'uguale oppressione patita in quanto schiavi, in una qualità positiva, l'egualitarismo che caratterizzava le loro relazioni sociali. Per dirla con le parole di un ulteriore studioso genovese, si chiama, si può dire così: quella che è stata di solito considerata una debilitante supremazia femminile era in realtà un'approssimazione a una salutare uguaglianza di genere nei rapporti familiari, migliore forse di quella delle famiglie bianche e forse anche di quelle nere del dopoguerra. Se le nere hanno sostenuto, e qui parla di nuovo Angela Davis, il fardello dell'uguaglianza nell'oppressione, se hanno goduto della parità con i propri uomini negli ambienti domestici, poi hanno anche rivendicato aggressivamente quell'uguaglianza, sfidando l'istituzione disumana della schiavitù. Hanno resistito alle aggressioni sessuali degli uomini bianchi, hanno difeso le proprie famiglie e partecipato alle rivolte e alle interruzioni volontarie del lavoro. Le donne avvelenarono i propri padroni, compirono atti di sabotaggio e, alla pari dei maschi, si unirono alle comunità maroon di Fuggiaschi e spesso scapparono a nord verso la libertà. Da numerosi resoconti di repressione violenta inflitta dai sorveglianti possiamo dedurre che la donna che accettava il destino di schiava era più un'eccezione che la regola. Le comunità Maroon, formate da schiavi fuggiaschi e i loro discendenti, erano diffuse in tutto il sud degli Stati Uniti, già tra il 1862 e il 1864. Erano il paradiso dei fuggitivi, servivano da basi per spedizioni contro le piantagioni più vicine e talvolta facevano un lavoro di direzione nei progetti di ribellione. Nel 1816 fu scoperta una comunità grande e prospera. 300 schiavi fuggiaschi, uomini, donne e bambini, avevano occupato un forte in Florida. Al loro rifiuto di arrendersi, l'esercito intraprese una battaglia che durò 10 giorni e costò la vita a più di 250 abitanti. Le donne combatterono tanto quanto gli uomini. Nel 1827 in Alabama, a Mobile, nel corso di un altro scontro, uomini e donne combatterono ostinatamente, come spartani, scrisse la stampa locale. La resistenza a volte era più ingegnosa e non si limitava a rivolte, fughe e sabotaggi. Includeva ad esempio l'acquisizione clandestina e la condivisione con altri delle competenze di lettura e scrittura. In Louisiana, a Natchez, una schiava gestiva una scuola di mezzanotte, insegnando alla sua gente nelle ore comprese tra le 23 e le 2 del mattino e diplomando centinaia di persone. Nessuna analisi del ruolo delle donne nella resistenza alla schiavitù sarebbe completa senza pagare tributo ad Harriet Tubman per le straordinarie imprese che realizzò conducendo più di 300 persone lungo la ferrovia sotterranea. La ferrovia sotterranea era una sorta di rete clandestina che aiutava gli schiavi neri a fuggire dalle piantagioni del sud degli Stati Uniti, attraverso tutta una serie di rifugi e di percorsi sicuri, con il sostegno di abolizionisti bianchi e neri. La giovinezza di Harriet Tubman si svolse nella maniera tipica di molte giovani schiave, da operaia agricola nel Maryland, imparò lavorando di avere, in quanto donna, le stesse potenzialità di un uomo. Suo padre le insegnò a tagliare la legna e a spaccare le recinzioni. Mentre lavoravano spalla a spalla, le dava lezioni che in seguito, durante i 19 viaggi che fece avanti e indietro, lungo tutto il sud, si sarebbero dimostrate indispensabili. Il padre le insegnò a camminare senza fare rumore nei boschi e a nutrirsi e curarsi con piante, radici ed erbe. Il fatto che non sia mai stata sconfitta è senza dubbio da attribuire all'educazione ricevuta dal padre. Harriet Tubman è stata davvero una persona eccezionale, tuttavia, da un altro punto di vista, quel che ha fatto è stato semplicemente esprimere a modo proprio la forza e la perseveranza che così tante altre donne della sua razza avevano acquisito. Questo è uno dei grandi paradossi del sistema schiavistico. Soggiogando le donne con il più crudele sfruttamento immaginabile, sfruttamento che non conosceva distinzioni di sesso, si gettarono le fondamenta affinché queste, attraverso atti di resistenza, reclamassero la propria uguaglianza nelle relazioni sociali. Una scoperta terrificante per i padroni, tanto che cercarono di rompere questa catena di uguaglianza attraverso una brutale repressione riservata in special misura alle donne. Di nuovo è importante ricordare che i castighi inflitti alle nere superavano in intensità quelli impartiti agli uomini, perché non venivano solo frustate e mutilate, ma anche stuprate. Lo stupro era un'arma di dominio, un'arma di repressione, il cui fine nascosto era la distruzione della volontà di resistere delle schiave, demoralizzando al tempo stesso i loro uomini. Le osservazioni sulla funzione dello stupro durante la guerra del Vietnam sono valide anche per lo schiavismo. In Vietnam, il comando militare statunitense ha reso lo stupro moralmente accettato. In effetti, si trattava di una linea programmatica, non scritta ma chiara. Chi incoraggiava i militari statunitensi a violentare le donne e le ragazze vietnamite, a volte si suggeriva di perquisire le donne con il pene, stava forgiando un'arma di terrorismo politico di massa, visto che le donne vietnamite si distinguevano per l'eroico contributo alla lotta di liberazione del proprio popolo. La specifica ritorsione militare scelta è stata lo stupro. Come lo stupro era un elemento istituzionalizzato dell'aggressione condotta contro il popolo vietnamita, volto a intimidire e terrorizzare le donne, alla stessa maniera i proprietari di schiavi incoraggiavano l'uso terroristico della violenza sessuale per rimettere al loro posto le donne nere. Gli schiavisti potrebbero aver fatto proprio questo ragionamento, dato che le donne hanno conquistato una consapevolezza della propria forza e un forte desiderio di resistenza, gli assalti sessuali violenti ricorderanno loro la propria condizione essenziale e inalterabile. Nella visione suprematista maschile di quel periodo, questa condizione implicava passività, acquiescenza e debolezza. Vesti il selciato della via. Però conclude Angela Davis, e concludo anch'io con lei, questa visione suprematista maschile che vedeva nelle donne nere, schiave, vittime di stupro, le caratteristiche di passività, acquiescenza e debolezza, questa visione suprematista non è mai stata confermata dalle donne stesse, ci dice appunto Angela Davis. Tutte queste schiave che sgobbavano sotto la sferza dei padroni, lavoravano per le proprie famiglie e le proteggevano, lottavano contro la schiavitù e non si facevano sottomettere, nemmeno quando venivano picchiate o violentate. Ecco, tutte queste donne sono state quelle che hanno passato alle proprie discendenti, nominalmente libere, un'eredità di duro lavoro, di perseveranza e di fiducia in se stesse, un'eredità di tenacia, di resistenza e di determinazione sul tema dell'uguaglianza tra i sessi. In breve, un'eredità che getta le basi per una nuova condizione delle donne. E questa eredità di non sottomissione e di lotta è quella che ci piace conservare e alimentare, e che prendiamo anche noi che nere non siamo, ma che viviamo comunque una condizione di sfruttamento e di oppressione, che prendiamo appunto con gioia dalle sorelle nere. E finisce così per il momento il contributo su Angela Davis e le questioni legate a donne, razza e classe.